Questa ultima tornata di lavori in realtà dovrebbe essere sviluppata, credo, in un congresso a parte o in un incontro, perché la riflessione sul Tridentino da parte dei teologi storici canonisti tra 800 e 900 è un fatto troppo importante per essere limitato a due relazioni, e ne eravamo ben consapevoli quando si è deciso questo con l'amico Reinhardt. Si è sentito di fare due sondaggi anche per le persone, appunto, che particolarmente competenti che hanno accettato. Due sondaggi però che sono sondaggi in qualche modo mirati, cioè da una parte il mondo protestante tedesco, dall'altro per il mondo cattolico si è scelta la canonistica, cioè si è scelto di fare un sondaggio sulla rielaborazione, sul ripensamento, sulle riflessioni sul Tridentino, viste attraverso la lente focale del codice di diritto canonico del 1917, cioè vedere, insomma, l'evoluzione della disciplina, tra virgolette, della Chiesa cattolica dal Tridentino alla riflessione, appunto, canonistica tra 800 e 900. Siamo ben consapevoli, appunto, che ci sarebbero da affrontare un'enormità di problemi su questo. Basta pensare che, appunto, il Concilio di Trento e il Moderno è il titolo del nostro convegno e non abbiamo alcuna relazione sul modernismo, che proprio il modernismo è l'espressione, diciamo così, proprio di questo, diciamo, disagio teologico e storico che travaglia il mondo cattolico sino, possiamo dire, sino al Vaticano II. Pensare ai problemi anche nella formazione di Roncalli, eccetera. Quindi siamo ben consapevoli che ci sono delle tematiche enormi che abbiamo lasciato forzatamente da parte e che bisognerà riprendere proprio adesso, nel momento in cui, appunto, la polemica modernista e antimodernista è veramente tramontata, e quindi possiamo considerare questo travaglio come, appunto, una delle tappe più importanti, insomma, ecco, per le trasformazioni del nostro secolo all'interno del momento religioso. Ecco, tutto questo per dire che, appunto, noi abbiamo chiesto al professor Astorri, ordinario di diritto canonico o di storia del diritto canonico, di diritto canonico storia delle relazioni tra Stato e Chiesa, di condurre, appunto, e di esporci questo sondaggio sulla riflessione della canonistica, appunto, sul Concilio di Trento tra 800 e 900. Noi lo ringraziamo e lo sentiamo. Io mi scuso innanzitutto per una mia svista, il titolo nel riassunto che vi è stato dato è «Nei canonisti del XIX e XX secolo ed eccessi», mi pare eccessiva l'estensione, quindi fra 800 e 900. E poi mi scuso anticipatamente la relazione mi è uscita un po' lunga, nell'abbreviare qualche passaggio sarà meno chiaro. Il tema che mi è stato proposto è indubbiamente di notevole complessità. È persino ovvia la notazione che le tematiche tridentine hanno largo spazio nei canonisti di questo periodo, al punto che parrebbe difficile trovare un filo conduttore nella marea di riferimenti che ne corredano i testi e l'apparato critico. E proprio tale ridondanza provoca una prima difficoltà, in quanto sembra ridurre l'analisi dei canonisti di questo scorcio dei secoli XIX e XX ad una sfilata di opinioni, nella sostanza tutte omologate da un ossequio scontato alla maestà dei decreti tridentini. Questa prima osservazione segnala l'esistenza di alcuni nodi metodologici e tematici che vanno risolti previamente se si intende sviluppare con adeguatamente l'argomento. Ritengo perciò opportuno indicare preliminarmente alcune scelte da me operate che, se da un lato delineano i limiti intrinseci alla relazione, dall'altro offrono un criterio ermeneutico che ha permesso di inoltrarsi in modo più agevole nella ricerca. Una prima opzione è stata quella di analizzare prevalentemente la manualistica, lasciando in secondo piano le opere monografiche. Questo, pur nei limiti legati al genere letterario esaminato, ha consentito di avere un panorama sufficientemente articolato della canonistica che ha reso anche possibile una comparazione. Tale scelta ha trovato e trova un'ulteriore giustificazione nell'abbondanza di manuali pubblicati in questo periodo. Il Vanove, nel primo volume di un manuale posteriore al codice, che offre la bibliografia più completa e organica della canonistica di questi anni, elenca più di 200 manuali di vario genere pubblicati in questo scorcio di tempo, cioè tra il 1860 e il 1917, anno della promulgazione del codice Pio Benedettino. Però questa scelta ha comportato un problema, qualche problema. Si è presentata la difficoltà di identificare nella manualistica dei punti fermi, visti le numerose riedizioni che si susseguono lungo un arco di tempo, talora più che decennale, e più che cinquantennale in qualche caso, tanto che in alcuni casi, per di più con curatori diversi, le edizioni superano la soglia del 17. Il secondo problema è stato costituito dalla pertinenza dell'esame di tali testi per un approccio significativo alla problematica che dovevo trattare. Pesa infatti il giudizio negativo dato da alcuni studiosi di quegli anni e fra i più autorevoli sulla canonistica coeva. In effetti, prima il Ruffini e il Friedberg, curatore dell'ultima edizione del Corpus Iuris Canonici, poi il Falco, esprimono una valutazione molto critica. Il primo parla di condizioni singolari a cui il diritto canonico si è ridotto, di separazione della scienza dalla pratica, di riduzione di quest'ultima a pura routine. Lo studioso tedesco definisce irrilevanti i contributi scientifici dei consultori chiamati a collaborare al processo di codificazione del Gasparri nel 4, che rappresentano abbastanza fedelmente le scuole canonistiche del tempo. Il Falco, infine, riferendosi a questi scrittori, parla di troppo grave decadimento, di troppa scarsa conoscenza storica e capacità sistematica. La terza e più importante difficoltà è stata costituita dalla codificazione e dal peso che ad essa doveva essere dato nell'analisi della canonistica del tempo. A mio avviso, essa rappresenta un punto di riferimento ineludibile per ogni investigazione su questo tema, per due considerazioni. In primo luogo, perché, come risulta da un documento dell'Archivio della Codificazione Canonica pubblicato dal Feliciani, numerosi e significativi furono i canonisti che collaborarono alla stesura del Codex Pio Benedettino. Per cui, anche se il contributo del Cardinal Gasparri, al di là di qualche testimonianza eccessivamente autocelebrativa, rimane decisivo, deve essere rivalutato sulla base di quanto emerge dopo l'apertura degli archivi vaticani l'apporto dei canonisti alla stesura del Codex. Fatto questo, che segnala una continuità tra dibattito dottrinale e codificazione molto più rilevante di quanto non si sia pensato sinora. A tutto ciò si aggiunge un qualche mutamento nell'interpretazione storiografica del pontificato Piano, che aveva portato a una sottovalutazione del significato della codificazione. Mi riferisco in particolare una interpretazione quasi esclusivamente centrata sulla restaurazione dell'ordine interno alla Chiesa in chiave difensiva, che ha visto nella reazione alla crisi modernista il suo momento fondamentale. Accanto a questo c'è stata la fine di un certo antigiuridismo postconciliare che approdava fatalmente alla sottovalutazione del significato del diritto nella vita della Chiesa. E ancora, tra gli studiosi di diritto canonico viene attenuandosi quella separazione esasperata tra storia e diritto che è stato il portato fondamentale, almeno in Italia, della promulgazione del Codex. Ancora, le ricerche del Tarello sulla, del professore Genovese sulla storia delle codificazioni civili hanno offerto spunti per cogliere meglio anche il significato della codificazione canonica. Ciò porta, almeno a mio avviso, a fare del riferimento al processo di codificazione canonica un punto fondamentale per offrire un quadro della canonistica di questi anni. Da ultimo, per definire il contesto complessivo in cui operano questi autori, accanto alle problematiche cui si è accennato, si deve porre quale fattore, evidentemente non di poco conto, l'implicazione esistente tra riforma del diritto canonico e dibattito intorno a questo e perdita del potere temporale. Questa connessione passa così rilevante ad alcuni canonisti ed ecclesiasticisti di scuola tedesca come lo Stutz e Rottenbücher, che hanno ritenuto di poter affermare, con fondatezza di argomentazioni, che la perdita del potere temporale ha influito sulla riforma del diritto della Chiesa tanto quanto le costituzioni del Vaticano I. Al complesso intrecciarsi della riforma del diritto, di storia della storia dell'istituzione, della riflessione dottrinale, fa riferimento anche il più importante canonista italiano di questo periodo, Francesco Ruffini, il quale in un suo saggio propone un parallelo fra gli anni post-tridentini, nei quali era fallito l'ultimo tentativo di pubblicare una collezione canonica, il Liber Septimus, e gli anni seguenti al Vaticano I. Il giurista piemontese individua nella, cito, «scissura profonda per entro alla stessa Chiesa, che solamente lo scetticismo dei tempi moderni tolse che si facesse più larga», nella, cito, «avversione dichiarata di primarie nazioni ad accogliere, nonché il grosso delle preannunciate nuove leggi ecclesiastiche, già semplicemente quell'avanguardia di esse che erano i decreti del recente concilio ecumenico», nella prudente astensione della Santa Sede di fronte ai postulati favorevoli alla codificazione in occasione del Concilio Vaticano I, altrettanti elementi di continuità fra gli anni post-tridentini e quelli a lui contemporanei. E pur con l'avvertenza che il paragone non poteva portare a una sovrapposizione dei due periodi, a suo avviso tali elementi costituivano un fondamento adeguato del suo pessimismo sull'esito dell'impresa iniziata da Pio X nel 1904. Il Ruffini propone dunque una sostanziale continuità fra i due periodi e interpreta queste ultime vicende come una conferma del suo approccio interpretativo, nel segno del definitivo declino della parabola del diritto canonico sconfitto dagli esiti cui era giunta la dogmatica giuridica moderna. Accanto a questa posizione, che almeno per quanto riguarda la scienza giuridica italiana ha costituito un riferimento così forte da diventare un luogo comune, ne è stata avanzata anche un'altra, ad opera di Ulrich Stutz, un canonista protestante tedesco. Stutz e Friedberg sono i due grandi canonisti di formazione giuridica tedeschi protestanti. Secondo questo autore, all'inizio del secolo XIX, l'organizzazione della Chiesa Cattolica si trovò in una condizione di disfacimento che non era dissimile da quella del cristianesimo francese ai tempi di Carlo Martello. Ora come allora si accinse alla ricostruzione. A suo avviso, lo sforzo della canonistica non si esaurì anche in campo cattolico in una pura e semplice restaurazione. Durante questo periodo non erano certamente mancati ritorni al Medioevo in singoli casi, che avevano avuto come il sillabo vasta eco all'esterno, senza influire, a giudizio dello Stutz tuttavia, più che tanto sull'ordinamento e sull'organizzazione della Chiesa. A suo avviso, cito, «si compì, al contrario, negli ultimi tempi, in completo silenzio, un mutamento carico di conseguenze. Dall'inizio del secolo il peso della potestà ecclesiale è stato lentamente ma sicuramente spostato in ambito spirituale». Alle tesi dello Stutz daranno il loro consenso anche altri autori di scuola diversa, il Laurentius e lo Charnel. Il Laurentius è un gesuita che insegna in Germania e anche a Roma, lo Scharnagl è un canonista bavarese. Il primo coglie nella preoccupazione di definire una disciplina che concerna solamente da sinerkirchliche e da spirituale i caratteri fondamentali dell'evoluzione più recente del diritto canonico, mentre il secondo osserva che il pontificato di Pio X rappresenta l'apice di un processo di riforma del diritto della Chiesa inteso come diritto inteso come dasso genante innere Kirchenrecht. Le posizioni del Ruffini e dello Stutz si presentano come speculari. Per entrambi esiste un legame inscindibile tra il processo in atto nel diritto della Chiesa, di cui è parte essenziale la dottrina, e la codificazione. Solo che mentre per il Ruffine tale connessione rende impossibile quest'ultima, la codificazione, per lo Stutz la rende inevitabile. Nel contesto di questo legame, porre il problema dei riferimenti al Concilio di Trento nella canonistica di quegli anni significa prendere atto che la codificazione, che anche i canonisti interpretano, al di là di qualche divergenza formale, secondo i parametri illuministici, assume il significato paradigmatico di una presa di distanza, certo non del tutto intenzionale, dal Concilio Tridentino. La sovrabbondanza di richiami ai documenti tridentini appare dunque molto meno significativa di quanto il loro numero e la loro ridondanza facciano credere. In effetti, se si va oltre l'impressione suscitata dal numero delle citazioni, fatte sia dalla dottrina che dal codice, emerge la considerazione che tale attenzione viva di una sorta di schizofrenia. Le tematiche e per certi aspetti le norme sono le stesse, ma il contesto ecclesiologico e istituzionale è radicalmente mutato. La richiesta di una nuova codificazione avanzata da numerosi vescovi già al Vaticano I rivela l'ambiguità del riferimento al Tridentino, proprio nella imprecisione sulle modalità concrete che avrebbe dovuto assumere il nuovo corpus legislativo. Nel momento stesso in cui viene richiamata l'urgenza di una riforma del diritto della Chiesa, si consuma la distanza dall'orizzonte direttamente collegato al Concilio Tridentino e al Corpus Iuris Canonici che venne pubblicato contemporaneamente, e si vede nelle codificazioni civili illuministiche il possibile modello a cui ispirarsi. In questa duplice chiave ermeneutica, volontà di essere fedeli al dettato del Tridentino e mutamento dell'orizzonte dell'ordinamento che va progressivamente perdendo i termini di riferimento alla cultura giuridica del periodo premoderno, va letta la canonistica degli anni intorno al Vaticano I. La ricostruzione e il riferimento al Concilio di Trento nella temperie del dibattito tra questi autori presuppone, almeno a mio avviso, la comprensione di questa distanza. Il significato della codificazione. Abbiamo accennato al fatto che uno dei punti cruciali dell'ambivalenza dei riferimenti al Tridentino è dato dall'approccio della canonistica di questi anni al tema della codificazione. Come hanno messo in evidenza gli storici del diritto che in questi anni si sono dedicati allo studio di questo fenomeno negli stati del XVIII e XIX secolo, esso è l'esito di determinati rapporti reali nella società e di una specifica visione del diritto che è figlia dell'illuminismo. Come ha notato il Tarello, la codificazione costituzionale e quella di altri settori del diritto non sono collegate in maniera indissolubile, ma la prima nasce comunque quando, cito, viene a configurarsi come un rapporto giuridico la relazione intercorrente tra il detentore o i detentori del potere politico e coloro che sono soggetti a tale potere. Tutto questo presuppone, cito ancora, la concordanza tra due fenomeni, entrambi i quali si svolgono nel tempo. Il primo fenomeno si svolge a livello culturale e consiste nel fatto che i giuristi e più in generale gli uomini di cultura vengono a rappresentare e a descrivere il rapporto politico come rapporto giuridico. Il secondo fenomeno si svolge a livello, per così dire, reale e consiste nel fatto che la rappresentazione e descrizione del rapporto politico nei termini di un rapporto giuridico corrisponde ad una situazione reale, di fatto, e non è solo un'immaginazione o una deformazione culturale. Secondo elemento che, secondo il Tarello, definisce il processo di codificazione civile è anche il superamento del particolarismo giuridico, cioè inteso, cito, come mancanza di unitarietà e di coerenza delle leggi vigenti in una data sfera spazio-temporale, individuata in seguito a un giudizio di valore secondo il quale in quella stessa sfera vi dovrebbe essere o ci si aspetterebbe vi fosse una certa unità e coerenza di leggi. Risulta così chiaro che il dibattito in atto e le prime opzioni operate dalle codificazioni canoniche private pubblicate in questi anni esprimono un mutamento culturale importante e non solo un'ipotesi meramente tecnica. Per cogliere il senso profondo di questo dibattito basta osservare che questi sono gli anni della contestazione di Rudolf Sohm sulla pertinenza del diritto alla Chiesa, che ha posto in termini così radicali la questione del diritto canonico e del suo fondamento teologico da non lasciare più requie, secondo l'espressione di Klaus Mörsdorf, alla canonistica cattolica e protestante sino ad oggi. E questi sono anche gli anni della perdita da parte del diritto della Chiesa della competenza in molti settori. Pensiamo solo alla giurisdizione matrimoniale, sotto la pressione dello Stato liberale e del suo monismo giuridico. Anche un autore come il Friedberg, che pure ritiene necessaria l'autonomia dell'ordinamento canonico da quello statuale, annota che, cito, il diritto emanante dalla Chiesa non può classificarsi né come ius publicum né come ius privatum, perché l'uno e l'altro presuppongono l'idea dello Stato dalla quale la Chiesa fa assolutamente astrazione, riducendo così lo spazio del diritto ad un ambito sostanzialmente regolamentare del diritto canonico. Se il peso delle contestazioni del Sohm, della contestazione del Sohm, non appare immediatamente rilevante, non esistono moltissimi riferimenti a, in questo periodo da parte cattolica di risposta alla incompatibilità che Sohm ha rilanciato riprendendo le teorie luterane, la teoria di Lutero tra diritto e Chiesa, quella derivante dal monismo della concezione positivista urgeva una risposta più immediata. E la risposta porta in sé la contraddizione di salvaguardare la funzione salvifica del diritto nel contesto della concezione tridentina, utilizzando tecniche elaborate dalla dogmatica giuridica moderna, accettandone il presupposto della neutralità. Si fa così riferimento, attraverso questo schema, ad un modello di società, di rapporti reali e di precomprensioni culturali che, secondo le osservazioni del Tarello, esprimono una situazione data e non un modello teorico neutro. Anche qualche canonista del tempo si rende conto di questo fenomeno, tanto che il Verz, l'ultimo autore degli Ius Decretarium, cioè di un commentario, annota che la definizione di diritto costerebbe meno fatica ai giuristi cattolici, cito, sì, de relictis a catholicis fontibus, aput philosophos atque theologos catholicos, genuinas aurirent iuris notiones. Una ulteriore conferma di questo, di quanto si è detto, viene oggi dalla lettura del dibattito che è avvenuto in seno alla Commissione dei Consultori, circa il modello che il nuovo codice avrebbe dovuto seguire. Si legge una relazione del 1904 che molti vescovi ed anche alcuni eminentissimi cardinali continuarono ad insistere perché a tutto il diritto canonico venisse dato nuovo ordinamento e nuova forma, imitando l'esempio di tutte le nazioni civili, come Gregorio IX seguì le tracce di Giustiniano per il diritto romano, dimenticando che in realtà si era rovesciata l'ipotesi. Nel Medioevo era la canonistica che aveva, dice qualche autore, un Führerrolle in Rex Leben, mentre nel mondo ottocentesco è esattamente il contrario, è la Chiesa che segue il processo delle codificazioni civili. La parte centrale della mia relazione prenderà in esame quattro punti che mi sono sembrati a vario titolo significativi per il tema richiesto: i rapporti tra Chiesa e Stato, la potestà episcopale, la dimensione sinodale vista attraverso i concili particolari e le conferenze episcopali e infine il tema della consuetudine. I rapporti tra Chiesa e Stato. I canonisti di questi anni, sia di parte cattolica che di parte protestante, sia gli ultramontani che gli eredi di concezioni giurisdizionaliste, ripropongono con qualche eccessiva ripetitività la tematica del rapporto tra Chiesa e Stato quale principali e principale e in certi casi unica chiave interpretativa del diritto della Chiesa e della sua evoluzione. Così il Friedberg, commentando la situazione del diritto canonico conseguente al Concilio di Trento, afferma che essa è segnata dal definitivo affermarsi del sistema papale, cui gli episcopati nazionali non erano stati in grado di opporsi. A giudizio del Friedberg, ma anche di altri canonisti, l'episcopato avrebbe potuto controbilanciare la forza crescente del potere primaziale solo con il sostegno degli stati. In definitiva, per questi autori, la dialettica tra episcopato e primato va ricondotta a quella fra gli episcopati nazionali e il pontificato, e visto che le chiese nazionali subiscono la forte influenza dello Stato, i rapporti interni alla Chiesa tra principio collegiale e principio monarchico, tra primato ed episcopato, diventano un epifenomeno della categoria più generale dei rapporti tra Chiesa e Stato. Una riprova è data, secondo questi autori, dal rafforzamento delle nunziature che avviene nel corso dell'età moderna, e la nunziatura è contemporaneamente rappresentante presso lo Stato ma anche presso gli episcopati. La posizione del Ruffini, che era allievo del Friedberg, tra l'altro, è leggermente diversa. È diversa. Secondo lui il rapporto tra primato ed episcopato, quale è emerso al Vaticano I, va posto nel quadro di una dinamica ecclesiologica. Ma proprio per questo dubitava che il pontefice, cito, coi decreti vaticani posto dappertutto e soprattutto pressoché divinizzato, volesse dar leggi a se stesso. E poiché la legge alla fin fine conserva il suo carattere di patto, voglia legarsi anche menomamente verso i suoi soggetti, ora che con più ragione che non mai per l'addietro egli può dire di sé, con la imperiosa e poderosa espressione di Bonifacio VIII, di essere colui qui omnia iura in scrigno pectoris suis censetura bere. In realtà mi sembra che Ruffini sottovaluti l'influenza della cultura laica che aveva portato qualche anno prima il futuro cardinale Gasparri a sostenere nelle sue lezioni all'Institut Catholique, rimaste inedite e pubblicate solo recentemente, che il pontefice può scegliere una modalità di esercizio del potere primaziale e per il bene della Chiesa obbligare i suoi successori a rispettarla. Se quest'ultimi, prosegue Gasparri, agissero in senso contrario, i loro atti sarebbero validi ma illeciti. Infatti, il Cristo, nel caso che la modalità scelta da un pontefice sia per il bene della Chiesa, trasferirebbe la potestà primaziale al successore allegata illa morali obbligazione. Cioè c'è un inserimento anche del ruolo del pontefice nella continuità di un ordinamento che è tipico della dogmatica giuridica moderna. Malgrado questo, per molti autori il problema cruciale continua a essere quello del sillabo e dei rapporti tra Chiesa e Stato, e tuttavia la questione era mutata radicalmente. A determinare questa evoluzione erano state due situazioni giuridiche concomitanti, il separatismo e la spiritualizzazione del diritto canonico. La prima aveva fortemente ridotto le interferenze dello Stato nell'ordinamento canonico, dandogli la possibilità di acquisire una coerenza precedentemente improponibile. La seconda, collegando più strettamente convinzione religiosa e diritto, tendeva a ridurre la pretesa del diritto della Chiesa di regolare materie che erano fuori dall'orizzonte della Chiesa e dalla salus animarum. Sorvolo sulle interferenze tra perdita del potere temporale e riforma del diritto della Chiesa, che secondo me sono importanti, ma accenno solo brevemente, per il fatto che c'è una maggiore qualificazione del personale diplomatico che da Leone XIII in avanti, e quindi si assiste, è un caso mi pare abbastanza raro, al fatto che i diplomatici sono anche gli autori di riflessioni teoriche in base alle quali fanno la loro azione diplomatica. Cioè il Gasparri non è solo il segretario di Stato che muove delle, fa delle scelte concordatarie o separatiste, ma elabora una teoria dei rapporti con lo Stato. Lo stesso Pacelli arriva ad accettare la separazione francese nel 14 in un documento che presenta, in un documento, io ho parlato nella, del, analizzando queste cose, di tentazione separatista che il Pacelli, che la Chiesa ha in questo periodo. La scelta concordataria, anche quella tedesca, che pure è dall'inizio dei concordati, delle trattative del concordato bavarese, siamo nel 19-20, la trattativa del concordato prussiano e con Reich di un anno successive, seguono una fase in cui la, lo stesso Pacelli dichiara che gli basterebbe, alla Chiesa cattolica in Germania basterebbe la Costituzione di Weimar, non avrebbe nessun problema. L'elemento sinodali, i concili particolari e le conferenze episcopali. Prima di addentrarmi nell'esame di questo tema, credo siano opportune alcune precisazioni. Si è molto discusso da parte degli storici e dei giuristi circa la qualità e la quantità dell'attività conciliare in questo periodo. In genere si è arrivata alla conclusione che tale attività era scarsa, al punto che quasi tutti i manuali discutono la possibilità che la non convocazione dei concili nei tempi previsti dalla disciplina tridentina e post-tridentina abbia introdotto una consuetudine contra legem. Dai dati pubblicati anche recentemente risulta tuttavia che la seconda metà del XIX secolo è stato un periodo di relativa ripresa dell'attività conciliare nella Chiesa. Sia nella tabella legata dal Corecco alla sua monografia sull'attività sinodale della Chiesa Cattolica negli Stati Uniti, che dai dati offerti dal Metz nella sua storia delle istituzioni ecclesiastiche, risulta che, per esempio, il Corecco si è celebrati tra il 1850 e il 1917 156 concili particolari, di cui 138 nella seconda metà del secolo, mentre nella prima metà del secolo se ne erano celebrati 14, di cui 7 solo negli Stati Uniti. E anche il Metz, pur con qualche differenza, conferma questa tendenza. Ancora, per completare il quadro dell'attività sinodale, si deve ricordare che nella seconda metà del secolo scorso numerose conferenze episcopali avevano iniziato un'attività abbastanza regolare. È il caso del Belgio, della Svizzera e, un po' più tardi, della conferenza di Fulda, della conferenza bavarese e dei meetings dell'episcopato irlandese. Altre conferenze erano un po' più saltuarie. L'analisi che andrò conducendo riguarderà il fondamento e lo scopo dell'attività conciliare, quale appare dai canonisti di questo periodo, il suo oggetto, il problema della recognizio pontificia e infine la questione delle conferenze episcopali. Tutti gli autori, la prevalenza degli autori, tende a collegare l'attività sinodale della Chiesa a differenti necessità organizzative. Nei primi secoli essa sarebbe connessa all'attività conciliare alla difficoltà creata dalla mancanza di collegamenti con la Chiesa di Roma. Nella fase successiva alla complessità organizzativa determinata dal crescere della Chiesa universale. Così un canonista tedesco, il Walter, collega l'attività sinodale allo svilupparsi dell'organizzazione ecclesiastica e in particolare al nascere del sistema dei metropoliti che ha portato alla celebrazione dei sinodi particolari. Secondo il Walter, col crescere del corpo intero, anche il primato apparve in forme più rilevanti. E questo spiega il venir meno della necessità del concilio. Nonostante il Walter dichiari essere troppo assoluta l'affermazione di un canonista, il Sauter, secondo i quali i concili particolari sono affatto inutili al di d'oggi, è chiaro che la sua, secondo lui, i concili sono superflui sostanzialmente. Anche un autore, Leichner, un autore austriaco, propone delle motivazioni legate alla efficienza della struttura ecclesiastica. Ad avviso di Leichner, i concili offrono l'opportunità di veder presenti, cito, episcopi doctrina ex santitate prestantes, capaci di formare aeropagum nobilissimum et tribunal summa autoritate preditum, per cui quem concilis definiuntur maiorem vim in hominum animos exercere solent, que quanque ecclesi e prelati qui singoli decernu. Come si vede, l'attività sinodale della Chiesa si appoggia non sull'unità dell'Episcopato, che pure è richiamata da taluno, ma su esigenze organizzative o sul maggior consenso ottenibile attraverso la convocazione di opinion leaders autorevoli, quali potrebbero essere i Vescovi. Quanto alla necessità e utilità dei concili, Leitner sostiene che i concili per la conservazione e l'incolumità della Chiesa assolute quidem necessarie non sono assolutamente necessarie. Un altro autore, il Nasoni, che è professore di diritto canonico a Milano, vede nell'attività sinodale la risposta a situazioni particolari. Sarebbero i sinodi uno mezzo straordinario di governo, opportuno per non dire necessario, si maiora inguant vel sin reparanda male. Anche per il Nasoni l'utilità dei concili sarebbe legata al fatto che quo magis enim qui regunt, immovendo ad finem concordes, eo facilius terminum prosecuntur, quanto più ci sarà concordia tra i vescovi, tra coloro che guidano le diocesi, tanto più facilmente saranno raggiunti gli scopi. Da qui, tra l'altro, la giustificazione data della rarefazione della celebrazione dei concili particolari. La necessità di questo consenso è compensato dalla maggiore facilità che nei tempi della fine dell'Ottocento il Sommo Pontefice aveva di provvedere da se stesso alle necessità del popolo cattolico. Altri autori guardano ai concili ritenendoli strumentali ad altri obiettivi. Così per il Friedberg essi sono funzionali alla diffusione del diritto comune piuttosto che all'elaborazione di un diritto particolare. Essi sono nati, cito, dopo il Concilio Lateranense IV, in quanto appunto allora si presentava la necessità di dare generale esecuzione al diritto comune codificato e che le disposizioni tridentine non facevano che confermare questa linea di tendenza. Sulla medesima linea, scarso lo spazio dedicato sia dall'Incius che dallo Stutz alla dimensione sinodale nei loro manuali di diritto canonico. Malgrado verso la metà del secolo ci sia stata una ripresa dell'attenzione nei confronti dell'attività sinodale, il Bui, uno dei maggiori esponenti dell'ultramontanismo francese, dei canonisti esponenti dell'ultramontanismo francese, include i concili particolari fra le strutture ecclesiastiche di diritto divino, mentre il Philips, che è un canonista tedesco, ritenga negativa la mancata diffusione a tutta la Chiesa dell'esperienza conciliare milanese del Borromeo, la riflessione sul fondamento dell'attività sinodale non sembra avere spazi particolari nella riflessione canonistica. La competenza dei concili. Certamente più articolate sono le posizioni della canonistica intorno alle competenze dei concili. Alcuni si richiamano al tridentino. Secondo Leitner, l'oggetto e la funzione dei tridentini è diffondere e applicare le leggi universali e in particolare quelle tridentine nella provincia, soprattutto se sono state dimenticate e debbono essere perciò riattivate e rinnovate. Devono, secondo Leitner, i concili provinciali astenersi dall'aggiungere o togliere alcunché alla regula fidei, non debbono immischiarsi nella definizione di controversie giuridiche o di questioni ancora dibattute dalla dottrina. Un altro autore, il Verzi, invece, individua per i concili una competenza generale che deriva tuttavia sia come potestà ordinaria che come potestà delegata dal primato pontificio. Possono dunque, ed è importante questo, legiferare preter ius commune, cioè laddove il diritto comune di origine pontificia o conciliare non intervenga. Secondo il canonista della Gregoriana, il loro obiettivo, anche questa è una notazione importante, pur con il preciso limite di non esautorare la libera giurisdizione dell'ordinario diocesano, è quello di ridurre le eccessive differenze normative fra le diocesi di un medesimo Stato e di raggiungere il massimo di uniformità nella disciplina. Certamente le controversie dogmatiche non devono essere oggetto dei concili particolari, ma essi possono ricevere e divulgare, ricevere e divulgare le definizioni dogmatiche dei pontefici e dei concili e ordinare e adattare secondo le circostanze di tempo e di luogo tali decisioni e tali leggi per una migliore comprensione del clero e del popolo. La ricognizio pontificia. Gli studiosi che ho visto presentano parecchie differenze circa l'origine, la natura e i limiti della ricognizio pontificia. Molti canonisti fanno rilevare che la Costituzione immensa di Sisto V, con la quale venne costituita la Congregazione del Concilio e venne introdotta la ricognizio, nasce in un contesto ben delimitato. Il Walter nota a questo proposito che i decreti conciliari, allorché non riguardino questioni di fede, non hanno duopo né secondo l'antico né secondo l'odierno diritto della conferma pontificia. Tuttavia, la ricognizio pontificia nasce dalla possibilità che i concili possono introdurre progressive modificazioni nella disciplina tridentina. E poiché dal concilio stesso, prosegue il Walter, era venuta una forte raccomandazione all'osservanza dei suoi decreti, Sisto V aveva incaricato di ciò un'apposita congregazione. Anche per un altro autore, il Santi, poi è stato rielaborato da Leitner, nota che il costume di sottoporre i decreti conciliari al Romano Pontefice aveva preso origine nell'antichità, quando si soleva condannare durante il sinodo particolari le eresie appena sorte e che tale consuetudine era stata tradotta in legge per volere di Sisto V, malgrado, cito questo autore, in odiernis concilis provincialibus, quae iusta ordinaria economiam causas fidei non per tract. L'autore più importante rispetto alla che presenta la variante più importante rispetto a quanto detto è il Wertz. Il Wertz contesta la tesi del Bui che la prassi introdotta da Sisto V avesse una tradizione della Chiesa antica. Definisce la ricognizio una correzio o censura che ha come fine quello di accertare se nei decreti ci sia qualcosa di contrario al diritto comune o di eccessivamente rigido o di non congruo rispetto alla ragionevolezza, alla giustizia e all'equitas canonica. Cioè, il controllo della congregazione non è politico, ma deve accertare se le leggi particolari contrastino con i principi, quelli che possiamo chiamare i principi supremi dell'ordinamento, la razionalità della legge, la giustizia e l'equità canonica, cioè la elasticità che la legge canonica ha di adattarsi proprio per il fatto che la legge è finalizzata alla salvezza dei fedeli, alla salus animare, di piegarsi alle situazioni concrete. Ultima osservazione sulla sinodalità, le conferenze episcopali. In alcuni manuali vengono trattate le conferenze episcopali che erano state istituite con una... In Italia, in modo particolare, sono gli autori italiani che sottolineano questo, nell'ultima parte del secolo, da Leone XIII, che di fronte alla mancanza di convocazione, alla scarsa frequenza di convocazione dei concili provinciali, istituì le regioni ecclesiastiche, quindi le assemblee dei vescovi che alle regioni ecclesiastiche appartenevano. Altre erano nate spontaneamente con degli statuti approvati o comunque non respinti, non modificati dalla Santa Sede, ho citato il Belgio, cito le Svizzere, eccetera. Mi pare che il significato fondamentale della nascita di questa istituzione sia questo, cioè nasce una struttura collegiale non istituzionalizzata, nel senso che tranne il caso dell'Italia, negli altri paesi è di iniziativa autonoma, è l'episcopato. È priva di poteri giuridici, questo è altrettanto vero, la conferenza episcopale non può dare leggi, non può intervenire nella giurisdizione, ma come risulta anche da alcuni statuti, ha come finalità una ricerca di una comunione più intensa tra i vescovi e l'individuazione di un'azione pastorale comune a livello nazionale e che riesce ed è più facile da conseguire proprio per la mancanza di la scarsa istituzionalizzazione della conferenza. E a mio parere rappresenta una grande novità non solo pastorale, ma anche per il crescere di un riferimento immediato della potestà episcopale a una dimensione sovradiocesana. Vale a dire, abbiamo visto che il Wärtz e tutti questi autori ritengono che il vescovo ha un potere di intervenire al di là della sua diocesi in funzione, tranne il caso del Concilio Ecumenico, in funzione di una partecipazione al primato pontificio. Attraverso l'esperienza delle conferenze episcopali incomincia a emergere che questa competenza al di là della propria diocesi è all'origine nella potestà del vescovo e non gli deriva da un mandato esplicito o implicito del pontefice. È curioso come in un dibattito sullo statuto della conferenza episcopale svizzera che si svolge tra il 1860 e il 1863, la prima riunione del 63, quindi 61-63, i vescovi scartino esplicitamente l'idea che la loro unione sia fondata sui poteri del nunzio, quindi sui poteri del Papa, ma viene richiamata la loro potestà episcopale. E vengo ora al problema della potestas episcopale. Uno dei temi chiave del dibattito tridentino degli anni successivi è stato certamente quello della potestà episcopale e del suo fondamento. Anche se la canonistica accetta sostanzialmente la dottrina della separazione tra potestà d'ordine e potestà di giurisdizione, si possono notare alcuni segnali preannunciatori della crisi. Nel corso delle mie riflessioni tenterò di individuare da un lato l'eventuale esistenza di elementi che attenuano o negano la separazione, dall'altro l'influenza della nozione di potere di diritto elaborata dalla dogmatica giuridica moderna sulla nozione di potestà nella Chiesa. La dottrina dello Ius Publicum Ecclesiasticum è una dottrina che nasce a Roma e che è una giustificazione del diritto, elaborata in questi anni dalla scuola romana, nella quale la riflessione sulla potestà della Chiesa viene a sovrapporsi alla elaborazione del fondamento del diritto canonico, rappresenta la conclusione di un processo che percorre i secoli dell'era moderna. A questa scuola appartiene il De Luca, cioè la teoria della scuola dello Ius Publicum Ecclesiastico sostiene che, essendo una Chiesa una società, le compete il diritto. Quindi, con argomentazioni filosofiche si deduce che la Chiesa è una società e a questo punto alla Chiesa compete un diritto ed è un diritto pubblico, proprio perché è un diritto che ha una funzione sociale. A questa scuola appartiene il De Luca, che secondo lo schema medievale, esasperato peraltro da alcune interpretazioni tridentine e post-tridentine, tiene nettamente separata la gerarchia d'ordine da quella giurisdizione. Tuttavia, nel presentare quest'ultima, insiste che nel diritto della Chiesa il termine giurisdizione, late et interdum latissime, acceptum est. Il Cavagnis, che è un personaggio molto significativo di questo periodo, insegna, è professore a Roma, è il maestro del Gasparri, è il candidato a diventare segretario di Stato di Pio X nel 1904 e non lo diviene solo per le sue cagionevoli ragioni di salute, ma è il maestro di tutta del Gasparri, poi anche del Pacelli. Scrive che alla Chiesa compete quale società perfetta non solo il diritto ma anche una potestas sui suoi membri in ordine ad finem sociale. Su questo finem sociale si fonda il diritto e si identifica questo fine, questa potestà, nella potestà di giurisdizione. Il Gasparri ritiene che la potestà ecclesiastica è ius dirigendi fideles ad deorum supernaturalem sanctificationem. Il termine dirigendi comprende potestà d'ordine e quella di giurisdizione dottrinale e disciplinare. Altri autori si limitano ad alcune constatazioni fenomenologiche. La gerarchia di giurisdizione è giustificata dal Nasoni perché uno solo, unum principem multiplibus necessitatibus per sé solo, solum providere, non possit. Da qui l'istituzione in un regime sostanzialmente monarchico di altri livelli di potestà giurisdizionale, che sarebbero appunto quelle dei vescovi, di coloro che l'hanno delegati, che hanno avuto questa, la delega da parte del pontefice. Su questa linea la distinzione e la separazione della potestà santificativa, cioè la potestà che deriva direttamente dal sacramento dell'ordine, da quella governativa,